Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Una delle scoperte di Eclettica di cui vado più orgoglioso in queste ultime settimane, Port O'Brien, appena ascoltati con I Woke Up Today, non prima però di avervi ricordato che la prima parte di quest'oggi si era chiusa con Good Times, Good Times e Kids e poi The Whitsundays e It Must Be Me. Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, che ricorda anche l'esistenza della lista nera, ovvero sia la possibilità di ricevere direttamente nella vostra casella di posta la playlist della trasmissione per farne parte un mail a giulio@radiorockfm.com e poi anche del podcasting di questa trasmissione, ovvero sia la possibilità di sentirla nel momento a voi preferito. Leggo un mail che è arrivato da Antonio, non so da dove scriva Antonio, il quale aveva chiesto di essere inserito proprio nella lista nera e mi dice: la mia casella Yahoo ti aveva messo tra lo spam. Ti rendi conto? Tu, la tua musica, le tue parole, tutto il resto insieme agli annunci del Viagra e simili. Inaudito. Ce n'è abbastanza per mandarle a quel paese e cambiare indirizzo, se non fosse che ci sono affezionato. Comunque ho recuperato tutte le puntate che mi hai mandato e ti ringrazio. Sono proprio contento di far parte della tua famiglia. Purtroppo non sono bravo con le parole, ma sono un ottimo ascoltatore e visto che di radio si tratta, alla fin fine ci sto bene pure io, no? Va bene, ti lascio il tuo lavoro. Che poi è il nostro piacere. Questo era Antonio e questi sono gli Edward Bostich. La leggenda, perché è una leggenda su internet che parla di loro, narra che siano due quindicenni che registrano nel bagno di casa di uno dei due nei sobborghi di Milwaukee e poi mettono su internet le loro canzoni. Sarà vero. Noi ce li ascoltiamo. Edward Bostich con A Lone Wolf. Maledetto! Maledetto! Hai fatto uccidere mio figlio, che non c'entrava niente. Lui... Ah! Lui cercava solo di proteggermi. Non aveva mai fatto del male a nessuno. Che ne sapete voi? Che è successo? Usando l'iniziale del suo cognome, Q da Genova con Sei giorni nella vasca. Eclettica che ha due brani ancora prima di dichiarare chiusa la settimana. Il prossimo è di quattro artisti che provengono dagli Stati Uniti, dalle Catskill Mountains nello stato di New York. Si chiamano The Felice Brothers e sembra che tre dei quattro componenti siano proprio fratelli della famiglia Felice. Frankie's Gun è il titolo del pezzo che state per ascoltarvi, che è estratto dal loro debutto, un debutto che è omonimo, come si conviene in questi casi, e che è stato pubblicato il 4 di marzo, quindi da pochissimi giorni. Mi sono letto un po' di recensioni sulla rete in giro per cercare di capirli, comprenderli, e ne ho trovata una molto sintetica che faccio vostra, The American Pogues. $20, but there ain't no lesser. As far to take my sister to the picture show. Bang, bang, bang, went Frankie's gun. He shot me down. Off a bender after long-legged Brenda died. I thought we might be on a roll this time, Frankie. I could have swore the box at Hollywood Blanks, but you see my mama, please tell her I left a little rock in a box in a cellar. That's for the way the kingdom come. Bang, bang, bang went Frankie's gun. He shot me down. Non preoccuparti, non ti succederà niente, vedrai. Sta tranquilla, ti accompagnerò io stesso in clinica. No, ti avevo detto che non volevo tornarci. Te lo avevo detto. Non puoi obbligarmi un'altra volta. Ma è per il tuo bene, cara. Hai sentito cosa hanno detto i dottori? No. No. No. Se due brani fa vi ho detto, come mi sembra di ricordare, che mancavano due brani alla chiusura di Eclettica, beh, se l'ho fatto mi sono sbagliato. Infatti c'è spazio per ancora una canzone, quella dei Devochka con Transliterator, e su questa ne sono sicuro. Vi saluto. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 18, volume numero 5, Indice, Misophone, Say Hi, Grand Archives, Good Times, The Whit Sundays, Port O'Brien, Edward Bostich, Q, The Felis Brothers, Newt, The Vochka. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.